fare qualcuno su 10. Attenzione, 10, c'è qualcuno? La, chi te l'ha fatto fa? Vai, vai, può cuoma. Solo tu ci sei. Luca, tu eri. Prova, prova, prova, prova, prova. Thank you.